fammi strumento della tua pace. Dove c'è l'odio, portare l'amore. Dove c'è offesa, donare il perdono. Dove c'è il dubbio, infondere fede. Ai disperati ridare speranza. Dove c'è il dubbio, far sorgere luce. Dove tristezza, diffondere gioia. Donare gioia e tanto amore. Gioia ed amore, gioia ed amore. Dio, fammi strumento della tua bontà, dammi la forza di consolare i cuori. Non voglio avere, ma solo donare, capire, amare i miei fratelli. Solo se diamo riceveremo, se perdoniamo avremo il perdono, solo morendo rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo. Rinasceremo.